2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Ci siamo di nuovo anche questa settimana, bentornati o benvenuti a 2024, il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Come la tecnologia ci cambia la vita e ce la sta cambiando moltissimo, e vedrete che cosa succederà nei prossimi anni. Questa è la puntata del 1 febbraio e del 2 febbraio 2014. Io sono Enrico Pagliarini, potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it, quindi 2024@radio24.it. Sapete che io preferisco sempre ricevere delle email, perché è possibile rispondere con magari qualche riga in più, mentre Twitter, che è fantastico per tantissime cose, però richiede una sintesi che a volte non è consentita da quello che uno deve dire, deve spiegare. Poi potete utilizzare anche Facebook, quindi cercare la nostra pagina su Facebook e utilizzare anche quello come strumento per dialogare. Per la prima volta nel 2013, per la prima volta nella storia, il numero di smartphone venduti nel mondo in un anno ha raggiunto e superato il miliardo. Allora, questo secondo i dati pubblicati in settimana da IDC, dati che tutto sommato sono confermati anche da Strategy Analytics e Canalis, che avevano previsto un po' meno del miliardo. Diciamo che IDC è andata sopra il miliardo, quindi ha fatto notizia questa cosa. Comunque, siamo attorno al miliardo di smartphone. In totale nel 2013 sono stati venduti 1,82 miliardi di telefonini, con un aumento del 4,8%. Allora, quando parliamo di telefonini parliamo di tutti i tipi di telefonini, anche quelli che non hanno un vero e proprio sistema operativo come quelli che stiamo commentando, che permettono di installare le applicazioni, eccetera eccetera. Quindi stiamo parlando di tutti i telefonini. Di questo 1.820 milioni, quindi un sacco di telefonini, il 55% erano smartphone, e quindi si tratta di tutto sommato 1 miliardo, quindi un numero incredibile. Gli smartphone sono aumentati, le vendite degli smartphone sono aumentate del 38,4%. Allora, se guardiamo ai sistemi operativi, la stragrande maggioranza di questi smartphone è Android, quindi il sistema operativo di Google, che ha grosso modo il 79% del mercato. iOS, il sistema operativo della Apple, quindi quello dell'iPhone e dell'iPad, ha il 15,5% del mercato. Beh, parliamo di iPhone perché stiamo parlando di smartphone. Poi Windows Phone ha il 3,6% del mercato. Quindi tutto sommato questi sono i tre sistemi operativi che in qualche modo hanno una quota di mercato. Android molto rilevante, iOS non male, Windows Phone ha comunque una quota di mercato definita, gli altri insomma hanno poco e nulla. Se guardiamo invece agli operatori, ai produttori di terminali, e guardiamo al mercato dei telefonini in generale, al primo posto c'è Samsung, che ha una quota di mercato del 24,5%, ha venduto lo scorso anno una roba come 446 milioni di telefoni. Poi c'è Nokia, che ha una quota di mercato che è quasi del 14%, 13,8%, Apple ha l'8,4%, LG il 3,8% e Huawei cinese, Huawei il 3%. Se però andiamo ad analizzare la quota di mercato per il segmento degli smartphone, che è quello dove si fanno i soldi, è quello dove si vendono sempre più telefoni, insomma dove c'è la parte frizzante del mercato, allora Samsung in questo caso ha il 31,3%, Apple ha il 15,3% e poi al terzo posto sale Huawei, i cinesi di Huawei, che hanno il 4,9%, LG ha il 4,8%, Lenovo, altra azienda cinese, ha il 4,5%. Questi sono i primi 5 produttori. Tutto il resto del mercato è molto frammentato, a quasi il 40%, siamo al 39,3%, e in questa parte del mercato la stragrande maggioranza dei produttori cinesi, direi quasi tutti cinesi, hanno come sistema operativo Android. C'è un'altra notizia della settimana che merita un approfondimento e per alcuni probabilmente è la notizia della settimana. Parliamo sempre di Lenovo, che non solo è quinto in classifica tra i produttori di smartphone, prevalentemente sconosciuto da questo punto di vista in Europa, ma molto forte in Cina e in Asia. Allora, Lenovo in settimana ha messo a segno un'operazione molto interessante. Ha acquistato da Google Motorola Mobility, quindi la parte di Motorola dedicata ai terminali. C'è anche un'altra parte che si occupa di altre cose. Allora, l'ha pagata 2,91 miliardi di dollari, con una cifra tutto sommato molto bassa, perché Google aveva comprato Motorola nel 2012 pagandola 12,5 miliardi. Allora, c'è chi fa notare giustamente che si trattava soprattutto di un'operazione sostanzialmente difensiva per proteggersi da possibili cause di Apple, Microsoft, Nokia, parliamo di brevetti. Tant'è che con Motorola Google aveva comprato soprattutto oltre 10.000 brevetti in ambito della telefonia mobile, quindi all'epoca servivano questi, diciamo che servono anche oggi, ma in modo particolare all'epoca servivano questi brevetti per proteggersi dai tribunali, da possibili cause in tribunale. Servono ancora oggi, tant'è che Google trattiene la stragrande maggioranza di questi brevetti. Rimangono in casa di Google e servono, potremmo dire, per proteggere tutto il sistema Android, l'ecosistema Android, la rete di produttori che fanno smartphone con questo sistema operativo. Questo è un aspetto molto importante. Molti di questi brevetti verranno poi concessi in licenza a Lenovo, secondo uno schema che abbiamo già visto con Samsung, perché qualche giorno fa Google ha firmato un accordo decennale con i coreani di Samsung per condividere i brevetti relativi a varie tecnologie, quindi non solo tecnologie relative alla telefonia mobile, anche wearable devices, quindi tecnologia indossabile, eccetera eccetera, e tutto ciò al fine di evitare cause legali, anche cause tra le rispettive aziende. Rimane a Google, e anche questo è un aspetto molto interessante e molto importante, la divisione Advanced Technology and Projects di Motorola, che è il centro di ricerca più avanzato, che sta lavorando su un progetto, quelli un po' più appassionati di telefonia mobile lo sapranno, è un progetto che si chiama Project ARA, che è uno smartphone personalizzabile che si costruisce a blocchetti, un po' come i Lego, una cosa che ancora molto ancora da laboratorio, quindi non la vedremo presto sul mercato, chissà, magari non la vedremo mai. Comunque è un progetto molto interessante. Allora, il marchio Motorola verrà mantenuto, ma da un lato Lenovo acquisisce competenze molto buone nel settore dei terminali mobili e sul sistema operativo Android, quindi un team di lavoro molto capace, mentre Motorola si potrà avvantaggiare delle economie di scala e delle tecnologie produttive di Lenovo. Molti fanno il paragone con l'acquisizione della divisione PC di IBM che Lenovo ha fatto nel 2005, un'acquisizione che anche grazie al marchio ThinkPad, il mitico ThinkPad di IBM, oggi di Lenovo, ha fatto crescere le vendite fino a fare diventare Lenovo lo scorso anno il più grande produttore di PC al mondo, superando HP. Diciamo che c'è un testa a testa con HP, ma Lenovo, secondo gli ultimi dati e secondo le ultime rilevazioni, ha superato HP ed è diventato il più importante produttore di computer. Allora, certamente le dinamiche della telefonia mobile sono diverse, c'è molta più competizione, ci sono molti più produttori, ma è molto probabile che vedremo crescere l'azienda in questo settore già da quest'anno e dal prossimo anno vedremo qualcosa in più anche in Europa. Questa operazione dimostra poi un'altra cosa interessante e importante, che Google si specializza nel software, dove si fanno molti soldi, lascia l'hardware a chi è specializzato in questo. Google sta investendo in hardware solo in settori a più alta innovazione, come i wearable devices, quindi la tecnologia indossabile, la home automation, chissà che cosa succederà da questo punto di vista, e anche le automobili automatiche, anche se dovremo aspettare ancora molto tempo prima di vedere qualche cosa sul mercato. I soldi si fanno col software soprattutto, e quindi è lì che chi può si deve specializzare. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana. digital news. Oh, naturalmente i soldi si fanno anche con l'hardware, ma soprattutto se ci metti il tuo software. Se il software è di un altro, i soldi li fa soprattutto l'altro. Lo si vede bene da quello che sta succedendo sul mercato. Allora, a proposito di software, a proposito di soldi, la Gran Bretagna ha avviato un piano per sostituire Office di Microsoft con alternative open source come OpenOffice, LibreOffice, ma soprattutto il governo britannico ha deciso di usare come formato dei documenti il .odf, che sta per Open Document Format, per garantire l'interoperabilità tra i software. Inutile dire che la mossa farà risparmiare milioni di sterline alla Gran Bretagna. La prossima settimana Microsoft dovrebbe ufficializzare la scelta del nuovo amministratore delegato che sostituirà Steve Ballmer. Secondo indiscrezioni sarà Satya Nadella, un ingegnere di origini indiane che attualmente è il responsabile della divisione Cloud d'Enterprise di Microsoft. Dopo aver perso una causa con l'emittente televisiva satellitare Sky, Microsoft ha annunciato in settimana il nuovo nome del servizio di archiviazione dei file online. Si chiamerà OneDrive, al posto di SkyDrive, che appunto non piaceva a Sky e per questo che ha fatto causa. Non si sa ancora quando andrà online ufficialmente il nuovo servizio OneDrive, ma si sa il nome. Arriva in Italia un altro produttore di smartphone Android, la cinese Haier, con la H davanti, ha annunciato la sua entrata nel mercato italiano e da oggi fino all'estate verranno gradualmente introdotti una decina di prodotti fra smartphone e tablet. Tutti gli smartphone, questa è una particolarità di questi smartphone, sul mercato italiano sono dual SIM. Il futuro dei televisori, lo sapete, è OLED, siamo grandi sostenitori, soprattutto Gianfranco Giardina, ma non solo lui, questa è una tecnologia incredibile. Allora, sapete che al momento l'unica azienda a credere fortemente e ad investire molto forte in questa tecnologia è LG. Stiamo parlando di prodotti che costano ancora molti soldi, ma una notizia di questa settimana ci suggerisce un trend per i prossimi mesi. Allora, LG, stiamo parlando quindi di prodotti da poco arrivati sul mercato, ha deciso di tagliare il prezzo del suo modello da 55 pollici curvo OLED, che da 8.000 euro crolla a 6.500. Certo, una cifra ancora molto molto importante, ma stiamo parlando di un prodotto da pochi mesi sul mercato che ha già visto ridursi il prezzo di quasi il 20%. Che cosa accadrà da qui alla fine dell'anno? Beh, è facile dirlo e capirlo. Ultima notizia che riguarda la web tax. Nell'ambito della conversione in legge del decreto destinazione Italia è stato approvato in commissione alla Camera un emendamento presentato da 3 deputati di Forza Italia che cancellerebbe la web tax, attualmente rinviata a luglio. Sarebbe certo una buona notizia, vedremo se ci sarà anche l'approvazione in aula alla Camera e poi al Senato. Adesso per noi c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco sarà con noi Francesco Caio, il responsabile, il commissario per l'attuazione dell'agenda digitale in Italia, che questa settimana ha presentato un rapporto sulla banda larga. Tra poco a 2024. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Parliamo spesso di auto connesse e di auto connesse parlano anche le istituzioni europee, le polizie europee. Anche un gruppo di lavoro che si chiama European Network of Law Enforcement Technology Services, cioè un gruppo che si occupa delle tecnologie che servono per far rispettare la legge, cioè come sfruttare la tecnologia per far rispettare la legge. Ad esempio, sapete, forse non tutti sanno che nelle prossime settimane entrerà in funzione una banca dati digitale di quella che si chiama motorizzazione civile, che servirà anche alle forze di polizia per interrogarla e per incrociare magari i dati, le fotografie che vengono fatte sulle strade italiane per capire se un determinato veicolo è assicurato oppure no. Questa è tecnologia messa a disposizione di chi deve occuparsi di far rispettare la legge. Allora, si sta discutendo di auto connesse e si sta ipotizzando la possibilità di inserire nelle automobili un controllo a distanza che la polizia potrebbe utilizzare per spegnere o fermare un veicolo. Naturalmente poi stiamo parlando di una cosa che, se mai ci sarà fra parecchi anni, è un'altra di quelle ipotesi che fanno poi discutere di mille altri aspetti, non solo quello tecnologico ma anche relativo alla privacy, eccetera eccetera. Però è una prospettiva interessante. Sapete che dal prossimo anno, ad esempio, tutte le automobili di nuova produzione che verranno vendute nell'Unione Europea dovranno essere equipaggiate con la e-call, emergency call, quindi la chiamata d'emergenza. Fai un incidente, tamponi, ti collega il sistema direttamente con il numero unico di emergenza europeo 112, che è già attivo in alcune aree italiane, puoi o dialogare, quindi c'è una sorta di telefono inserito nell'automobile, puoi o dialogare con l'operatore, oppure, se non c'è nessuna risposta, automaticamente arrivano i soccorsi. Quindi è già un primo principio di connected car, di auto connessa. Questa settimana è stato presentato dal governo il rapporto Caio, un rapporto che si occupa di banda larga, della diffusione della banda larga, cerca di capire qual è la situazione attuale, quali sono i progetti degli operatori e quello che si può fare, si potrà o si dovrà fare nel futuro per rispettare gli obiettivi europei. Un rapporto realizzato da un gruppo di lavoro coordinato da Francesco Caio, che è il responsabile per l'attuazione dell'agenda digitale italiana. L'ingegner Caio è oggi nostro ospite e lo ringraziamo per essere nei nostri studi. Grazie a voi. In estrema sintesi, la situazione ad oggi qual è e soprattutto quanto siamo in grado di raggiungere questi obiettivi? Il rapporto parla di moderato ottimismo perché lo studio e l'attività è consistita soprattutto nell'analisi dei piani dei gestori che hanno già iniziato ad attuare, soprattutto nella seconda metà dell'anno scorso, per quello che riguarda le reti di ultima generazione. Quindi in particolare abbiamo cercato di capire, con il loro aiuto e in rapporto anche al Ministero dell'Industria, dello Sviluppo Economico, Comunicazioni e dell'Agicom, se i piani che sono in attuazione sono allineati sulla giusta traiettoria per consentire all'Italia di andare al 2020, gli obiettivi europei. Esatto. E la sintesi... Ricordiamo che questi obiettivi sono, molto semplicemente, ecco: avere una copertura del 100% a 30 megabit. Esattamente. Avere una copertura di almeno il 50% a 100 megabit. Poi si può discutere, magari possiamo discutere, se questi obiettivi sono ancora dei buoni obiettivi o bisogna addirittura spingersi oltre. Comunque è vero che i gestori, quindi gli operatori telefonici, stanno o mettendo fibra fino ad un certo punto, ma soprattutto riutilizzando il rame, giusto? Sì, diciamo, quello che abbiamo visto è una serie di piani concreti in attuazione, in coerenti fra gli obiettivi che si pongono, gli investimenti messi a budget, e dunque noi siamo giunti alla conclusione che è molto ragionevole ipotizzare che nei prossimi 3 anni almeno il 50% della popolazione sarà raggiunto da una rete in banda larga di nuova generazione che riesca a erogare almeno 30 megabit di banda. In particolare, e questa è un'ulteriore buona notizia se vogliamo, per come è fatta la rete italiana, la vicinanza degli armadi stradali alle nostre case fa sì che, avendo portato la fibra fino all'armadio, la velocità, la qualità della banda disponibile a chi è in casa sarà più vicina ai 50 che non ai 30 megabit. Lei fa riferimento in modo particolare al progetto di Telecom Italia di portare appunto la fibra fino agli armadi stradali, quelli che noi vediamo sui marciapiedi, insomma vicino alle strade, poi da lì riutilizzare il doppino di rame. In questo modo, portando appunto la fibra non più in centrale ma sull'armadio, la velocità aumenta. Voi però scrivete anche che se i progetti sono questi, difficilmente arriveremo a questi obiettivi che l'Europa ci ha dato. Diciamo due cose. La prima è i piani aziendali, come sempre, coprono con in dettaglio i prossimi 3 anni. Sì. E quindi dal 2017 al 2020 abbiamo solo delle indicazioni di stima. E anche queste stime però indicano che al limite si possa arrivare, su spinta diciamo di iniziativa privata, al 65-70%. Quindi sappiamo già oggi che effettivamente ci saranno delle aree del paese non coperte, stando ai piani attuali, da questa nuova generazione. Voi avete posto l'attenzione giustamente su quello che oggi c'è sul mercato, quindi diciamo i piani degli operatori. Il pubblico sta facendo molto poco, quasi nulla, giusto? Il pubblico ha negli ultimi anni contribuito a completare la copertura della prima generazione di banda larga. Infatti nelle classifiche europee noi non siamo ai primi posti, ma non siamo neanche gli ultimi sulla copertura di prima generazione. Quella oggi di base, sì. Abbiamo un 98%, anche se contiene ancora quei 2 milioni di linee che per motivi tecnologici di varia natura ancora non riescono a erogare neanche quel minimo. Però negli ultimi anni c'è stato circa un dispiegamento di 1 miliardo di fondi che a livello regionale e a livello nazionale ha aiutato la rete a completare questo primo giro. Sì. Si tratta adesso di cambiare passo, perché questo stesso approccio, secondo il nostro suggerimento, va fatto per i fondi strutturali della pianificazione 2014-2020, per andare a completare e a integrare in parallelo l'iniziativa dei privati. Secondo lei un paese può, non dico fidarsi, comunque diciamo far affidamento ai piani di operatori privati, che quindi possono anche cambiare in base a varie situazioni di mercato, per raggiungere un obiettivo che dovrebbe contribuire alla crescita economica di un paese? Quindi io, Stato, dico, ho la necessità di avere questa infrastruttura e diciamo al momento mi affido ai privati, ma con tutti i rischi del caso. Abbiamo spesso ricordato una frase che disse il presidente Reagan negli anni 80, ratify but verify, ratifica ma verifica, che è un po' il motivo per cui si è fortemente raccomandato, e mi fa molto piacere che il presidente Letta lo abbia assunto come suo, il meccanismo del monitoraggio istituzionale di questi piani. Perché siamo convinti, con anche gli esperti stranieri, che questo era un po' un vuoto istituzionale italiano, e che cioè la banda larga fosse citata spesso a diversi livelli del governo, ma non ci fosse mai un ruolo forte della presidenza del Consiglio che tenesse il passo e l'occhio su queste cose. È chiaro che da solo questo non certo risolve il problema che lei giustamente pone, ma sicuramente aiuta sia da una parte a avere un dibattito politico pubblico trasparente e basato sui fatti, sia dall'altro di prendere per tempo misure correttive. Certo, diciamo che già se ci fosse il dibattito pubblico sarebbe già un buon risultato, perché di questo si parla troppo poco. Quindi lei dice comunque anche un po' di moral suasion nei confronti degli operatori può servire per incentivare il sistema. Sicuramente, io ho avuto l'esperienza in Inghilterra, dove la situazione è diversa, perché la British Telecom si è trovata di fronte a un concorrente come Virgin Media, quindi una televisione via cavo che è stata uno stimolo ai suoi investimenti, ma anche un governo che ha fatto capire molto chiaramente a tutti gli operatori sul campo che la banda larga non era più un'opzione ma assolutamente una necessità primaria di politica industriale. Voi nel rapporto parlate anche della domanda e dite ci sono alcuni problemi sul lato della domanda nelle aree urbane, diciamo così, quel 50% grosso modo dove gli operatori stanno investendo. Secondo voi, ricordo che questo rapporto è stato fatto con 2 esperti internazionali, anche con un gruppo di persone italiane, la Fondazione Ugo Bordoni, eccetera, eccetera. Secondo il vostro parere, la domanda in queste aree c'è tale da supportare gli investimenti e quindi, diciamo, lasciare libero il mercato? È difficile pensare che non ci sia, diciamola così, nel senso che ci sono fenomeni contrastanti e il tema fra uovo e gallina, offerta-domanda, è un tema che rischia di diventare un po' un dibattito sterile. Però alcune considerazioni. Noi vediamo un traffico di dati sulle linee attualmente connesse che continua a aumentare a 2 cifre ogni anno. Sì. Quindi l'utilizzo aumenta. È pur vero però che nel panorama internazionale l'utilizzo di audiovisuale sulla rete internet è più basso che in altri paesi. E quindi il tema di capire come anche si possa sviluppare un'offerta di qualità di contenuti in lingua italiana che possa aiutare la domanda di applicazioni principalmente audiovisive che tirano la banda è sicuramente uno degli elementi che sono emersi. Quindi voi dite l'audio-video è il driver principale, non le aziende che usano il cloud oppure altre cose? No, perché per un motivo molto semplice, che alla fine i volumi che giustificano i grandi investimenti delle reti sono sempre i volumi legati all'utilizzo dei consumatori e delle famiglie. Quindi, giusto per rispondere a chi dice ma come facciamo la rete in fibra o comunque cerchiamo di aumentare la capacità di banda per far vedere un film ai consumatori, sì, ma è anche vero che mi sembra di capire che questo è il driver, cioè il traino per poi erogare altri servizi utili anche alle aziende. È la massa di volume che giustifica l'investimento. Necessaria per l'investimento. Perché ricordiamoci che sono investimenti importanti di natura a costi fissi e una volta fatti hanno bisogno di molti volumi per essere giustificati. Sì. Nelle altre aree, quelle dove la popolazione non è così concentrata come nelle città, nelle aree urbane, ci deve pensare lo Stato? Ci deve pensare una pianificazione intelligente che ha da una parte il fondo pubblico e dall'altra un mix di tecnologie, e noi facciamo spesso riferimento al wireless, non solo come radio mobile, ma anche come radio fissa. E gli ascoltatori che hanno avuto modo di vedere per esempio il rapporto Agicom del dicembre dell'anno scorso, di un mese fa, hanno visto come è vero che diminuiscono le linee fisse ed è una causa di preoccupazione, ma è anche vero che aumentano e di molto i clienti di queste grandi reti wireless fisse che indicano la disponibilità di tecnologie che consentono di erogare la banda larga anche sostenuta in aree a bassa densità. Sì, ci sono aziende effettivamente che sono cresciute molto negli ultimi anni, anche aziende piccole o aziende oramai di medie e grandi dimensioni che sono cresciute proprio facendo business con il wireless fisso, si può chiamare Hyperlan, si può chiamare WiMAX, dipende dalla tecnologia utilizzata, comunque il segnale arriva da un'antenna e sempre con un'antenna nelle case si riceve questo segnale. Si chiama wireless fisso perché sono due postazioni fisse, la trasmittente e la ricevente, via radio, quindi non sono necessari cavi e naturalmente con un'antenna si possono coprire aree piuttosto ampie, un po' come fa la telefonia mobile, però la telefonia mobile appunto si può utilizzare in mobilità, in questo caso la ricezione viene fatta con una postazione fissa perché la tecnologia non permette altro e si possono raggiungere velocità molto interessanti simili alla DSL. Quindi lei dice in qualche modo lo Stato in quelle zone deve essere o più presente investendo o cercando di spingere alcuni investimenti in modo più forte. Ma guardi, qui c'è un ciclo virtuoso. L'Europa ha stabilito, non oggi, molti anni fa, l'allocazione di fondi strutturali che hanno come obiettivo quello di rendere tutte le regioni del continente competitive. Sì. La banda larga è un'infrastruttura essenziale per la competitività. L'Italia ha purtroppo fatto fatica a utilizzare appieno questi fondi fino adesso. Questo è una delle opportunità principali per presentarsi in Europa con un piano nazionale che ovviamente tiene in conto le esigenze regionali e che disegna una visione unitaria e credibile per arrivare agli obiettivi di banda larga del 2020. Senta, le regioni possono far qualcosa in questo ambito o la regia deve essere nazionale? Io penso che le regioni devono fare qualcosa portando il contributo della loro cognizione e conoscenza del territorio, strumenti finanziari, strumenti di pianificazione, utilizzo di infrastrutture alternative come per esempio i cavidotti delle utilities che sono oggi al centro di una nuova regolazione europea che facilita l'utilizzo di infrastrutture già esistenti. Quindi la conoscenza del territorio è chiave in questo settore, ma rispetto al passato devono insieme al governo centrale trovare metodologie di pianificazione più unitarie. Non si può più andare a Bruxelles con decine di migliaia di piccoli progetti quando ce n'è uno o pochi che fanno veramente la differenza. Sì. In tutto quello che sta accadendo oggi sul mercato, rimane il rischio di avere una dipendenza troppo elevata da un operatore, cioè Telecom Italia, perché anche in questa, diciamo, nei piani che abbiamo descritto all'inizio, che stanno portando fibra fino agli armadi stradali, diciamo che la stragrande maggioranza dei progetti sono di Telecom Italia. Sicuramente sì, e in Italia più che altrove la dipendenza dal gestore ex monopolista è un tema di attenzione, perché come si diceva prima, in altri paesi l'esistenza di una televisione TV via cavo almeno dà lo stimolo è un'alternativa. Sì. Qui se si fermano gli investimenti di Telecom Italia si ferma tutta la macchina della banda larga. Sì. Proprio a tal proposito, lei come vede l'idea che alcuni sostengono di una società pubblica per la rete che faccia investimenti e che quindi, diciamo, di fatto crei una rete alternativa a quella di Telecom Italia per raggiungere questi obiettivi o addirittura andare oltre questi obiettivi europei per avere appunto, come dire, parità d'accesso per tutti gli operatori, eccetera eccetera. È una struttura che fa molto senso da un punto di vista delle prospettive tecnologiche e di sviluppo della banda larga. È importante sottolineare che nel contesto di questo rapporto non si è ritenuto necessario indicare o suggerire degli interventi radicali per crearla, ma perché appunto abbiamo visto dei piani di gestori che vanno nella direzione giusta. Ma si è inserito e si articola poi, al di là della presentazione fatta in settimana, nel testo inglese del rapporto, l'invito a considerare forme di condivisione di investimenti e infrastrutture, perché è pur vero che il fiber to the cabinet, cioè portare la fibra all'armadietto stradale invece che fino a casa, conviene, ma si deve comunque fare un ragionamento quando poi si vedono che potrebbero esserci due o tre gestori che portano questa fibra nello stesso armadio e che a questo punto, da un punto di vista del sistema, costa quasi di più che non portarla fino a casa. Certo, e il mercato non arriva a questa conclusione, cioè quella di mettere in condivisione le infrastrutture. Ma secondo me noi abbiamo visto degli incoraggianti tentativi, e in alcuni casi andati anche a buon fine, di accordi di condivisione infrastrutture fra gestori. Noi pensiamo che nel momento in cui la pressione pubblica e anche del governo sale sul raggiungimento di questi obiettivi, anche i gestori saranno probabilmente più flessibili nel trovare forme di collaborazione. A questo punto la palla passa nelle mani della politica. Cioè, sì. Voi avete presentato questo rapporto e la politica dovrà prendere delle decisioni o non, diciamo, la conseguenza di questo rapporto non saranno decisioni che vedremo magari fra un mese, sei mesi, eccetera. Ma io penso a molto breve che ci sia la formalizzazione di questo processo di monitoraggio. Il presidente Letta è stato molto chiaro nell'articolare, nel descrivere questa matrice degli impegni che si basano sia su impegni di copertura che su impegni di raggiungere entro certi tempi quelle coperture. Certo. Quindi diciamo, l'augurio è che già dal prossimo trimestre si possa iniziare a mettere in piedi questa macchina, dove molto del lavoro è già fatto. Diverso invece è decisioni di tipo, mi lasci dire, interventista, dove invece si tratta di montare un piano e soprattutto un meccanismo di pianificazione, probabilmente col coinvolgimento del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, e del Ministero della Coesione Territoriale, perché si tratta di infilare questo capitolo importante nel più ampio discorso dei fondi strutturali europei. Sì. Magari su questo lavorerà anche il prossimo governo, chi lo sa. Ma vedremo. Vedremo. Lei è il commissario per l'attuazione dell'agenda digitale. Che cosa si è fatto in questi mesi? Lei termina il suo mandato il 31 di marzo, giusto? Sì. Che cosa si è fatto in questi mesi? C'è una cosa che è molto interessante, penso, per il sistema industriale italiano, che riguarda la fatturazione elettronica. Ci sono anche altre cose che voi avete fatto. Ma a me piace sottolineare una cosa che fa un po' la differenza rispetto al passato, ed è l'impegno del Presidente del Consiglio su questa materia. Non solo, non un fuoco di paglia per un comunicato stampa, ma la consapevolezza e la continuità di attenzione e di coinvolgimento su piani che vanno dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione alla banda larga. E anche se si guarda all'orizzonte di programma di governo per quest'anno, è sicuramente incoraggiante vedere che questi stessi obiettivi restano in quel programma. Questa, secondo me, è una differenza che forse ad alcuni ascoltatori può sembrare marginale, ma per chi ha vissuto per anni nel settore è realmente caratterizzante questo governo. Il presidente Letta ha, in occasione del convegno proprio organizzato da Confindustria, fatto un'equazione molto semplice: agenda digitale uguale riforma dello Stato. Quindi è difficile spingersi più in là. Certo. Rispetto a questa esigenza, rischia a volte di essere addirittura troppo distante, ma poi ha avuto capacità di tradurre questa grande affermazione in obiettivi specifici, e adesso poi ne parliamo. Perché può sembrare che effettivamente, lei dice, c'è un'attenzione che non c'è mai stata. Però a volte non traspare. No, questa ha ragione perché oggi noi stiamo facendo il lavoro della costruzione del tunnel sotto la Manica. Sono tempi lunghi perché stiamo mettendo in atto la costruzione di infrastrutture immateriali che sono abilitanti per l'erogazione dei veri servizi. Faccio un esempio. Un esempio. Fatturazione elettronica. Significa stabilire gli standard, definire i meccanismi dei flussi dei documenti e di dematerializzazione, perché i documenti non ne girano più, fra aziende e pubblica amministrazione, fra parti della pubblica amministrazione e di nuovo fra aziende diverse. E quindi un lavoro di impalcatura di regole e di standard che è necessario fare per arrivare all'obiettivo in modo sostenibile e in tempi e costi giusti. Quando partirà la fatturazione elettronica? Dal 6 giugno è obbligatorio per tutte le aziende che fanno business e fanno attività commerciali con le pubbliche amministrazioni centrali inviare le loro fatture in modo elettronico. E la cosa importante è che l'infrastruttura tecnologica che sarà deputata a riceverle e a smistarle è già attiva. Da novembre dell'anno scorso il nodo della fatturazione è attivo. Quindi uno lo potrebbe già fare? Assolutamente. Qui il tema è interessante perché uno potrebbe pensare, vabbè, facciamo girare meno carta. Non è solo questo. No. C'è molto di più. È un fondamentale abbassamento dei costi della transazione. È uno Stato che vuole trasformarsi da zavorra burocratica a fonte di competitività. È un abbassamento dei costi e un innalzamento della qualità, che poi è la cifra dell'agenda digitale, dove lei ha ragione, c'è sicuramente un deficit di comunicazione, perché è ancora spesso percepita come qualcosa di distante, cioè, e quasi marginale rispetto all'azione del governo. Sembra che non accada nulla. A volte effettivamente non si sa. Su che cos'altro state lavorando e che vedremo? Ma diciamo, gli altri due grandi progetti sono l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che punta a realizzare per la prima volta in Italia una banca dati centralizzata e aggiornata in tempo reale dei cittadini e delle cittadine residenti in questo paese con il loro stato civile e l'indirizzo. Sembra banale, ma è un salto gigantesco, perché diventa a tutti gli effetti l'indice della popolazione a cui poter poi gradualmente aggregare altri servizi e altre informazioni. Si parla tanto di cloud, ecco un'implementazione prodromica al cloud, perché significa avere in una unica centralizzata logica banca dati l'informazione di accesso a tutti i servizi. Quindi ci sta dicendo che dovremmo, non so in che tempi, superare le banche dati che oggi noi abbiamo: il codice fiscale, sì, in una banca dati, sì, la patente di guida, sì, da una parte, la carta d'identità da un'altra parte. È così. Quello che su cui stiamo lavorando non è l'evaporazione e la distruzione, mi lasci dire, di altre banche dati, ma la necessità di creare degli standard armonici di interoperabilità che risultano in due fondamentali benefici: una maggiore qualità di informazione per il cittadino, che ha l'opportunità, attraverso il terzo progetto, che è quello dell'identità digitale, con una sola password, di poter navigare fra tutti questi sistemi. E dall'altra un abbassamento dei costi dello Stato, perché si elimina un'enorme duplicazione di informazioni e ci si concentra ogni amministrazione su quello che è, certo, il suo specifico settore. Tempi di realizzazione? L'Anagrafe, dunque, degli 8.000 comuni, già circa 4.000 hanno trasformato i loro sistemi di security in preparazione alla connessione con la banca dati centrale. La banca sarà pronta in termini di struttura dei dati entro ottobre di quest'anno, con le prime migrazioni entro fine di quest'anno, e si punta per la seconda metà del 2015 a aver completato la migrazione. E dopo il 31 di marzo chi si occuperà dell'agenda digitale? La buona notizia, anche se arriva con un po' di ritardo, è che finalmente ieri è stato approvato lo statuto dell'agenzia digitale. È un passaggio molto importante perché istituzionalmente si riconosce l'esistenza di un'entità importante a riporto della Presidenza del Consiglio, che diventa il braccio attuativo e soprattutto di project management di questi progetti. Da questo momento dovrebbe partire un coordinamento, sì, che non speriamo che non si arresti in qualche modo. No, e devo dire qui due cose. Uno, i colleghi dell'agenzia anche prima dello statuto hanno negli ultimi mesi lavorato molto in questa direzione e già oggi si sono attrezzati per gestire in modo molto efficiente queste tre priorità. E due, una delle modifiche inserite dallo statuto, un suggerimento che avevo portato io, è quello di creare un comitato di indirizzo che colleghi in modo stabile la visione e le strategie della Presidenza del Consiglio ai progetti che di volta in volta andranno sviluppati. Faccio un'ultima domanda su, naturalmente, tutto quello che sta accadendo, che speriamo accadrà anche in modo più accelerato rispetto agli ultimi anni, dovrebbe generare anche un grande business per tutte le industrie, per tutte le aziende che si occupano di software, servizi, eccetera, eccetera. In questo caso, buona parte del lavoro non può essere fatto dallo Stato con le strutture che già esistono. Penso a una società che è Sogei, che si occupa di tecnologia per l'Agenzia delle Entrate, per altre entità. Poi c'è tutto anche il mondo, universitario, della ricerca, che può fare software e piattaforme per la pubblica amministrazione senza spendere soldi che magari molto spesso finiscono poi in altri paesi. La qualificazione della domanda porta a innovazione nell'offerta. Gli Stati Uniti mandarono l'uomo sulla Luna per far partire la Silicon Valley. Noi abbiamo questa opportunità di ripensare la macchina dello Stato in forma digitale, dando allo Stato un ruolo di gestore degli standard e aprendo il mercato a nuove realtà che possono andare da imprese della conoscenza agli app developers ai data analytics. Sarà un percorso di cambiamento sicuramente per le amministrazioni, ma una sfida importante anche per l'offerta. Bene, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro, a presto. Ricevo molti messaggi, molte email, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera, sempre critici sulla situazione italiana. Allora, non c'è dubbio, e penso che 2024 sia il programma, comunque la voce tra le più critiche nei confronti della pubblica amministrazione, nella mancanza di investimenti, di attenzione, di dibattito verso i temi della digitalizzazione. Da anni cerchiamo di far capire quanto è importante la fibra ottica, la banda larga nel paese, intervistiamo molte persone che si occupano di questo tema. In questo caso tutte le persone che mi hanno scritto, continuando in questo ritornello un po' critico sulla situazione della banda larga in Italia, la scorsa settimana sono usciti i dati trimestrali di Akamai, che continuano a metterci tra le ultime posizioni per quanto riguarda la velocità di connettività nel nostro paese. Questo lo sappiamo, lo diciamo tutte le settimane. Mi sembra però che effettivamente, come diceva l'ingegner Caio, le cose stiano lentamente, perché quando parliamo di pubblica amministrazione non possiamo pensare purtroppo che le cose accadano velocemente. Sembra di capire che le cose stiano lentamente cambiando, anche magari per motivi anagrafici, perché l'età media dei politici sta scendendo, e quindi speriamo che poi il prossimo governo continui e magari acceleri anche questa discussione. Sicuramente sulla tra l'altro il rapporto rispondeva ad una domanda che è stata fatta, cioè la domanda era: in base a quello che sta accadendo, cioè i progetti degli operatori nazionali, saremo in grado di rispettare gli obiettivi europei? Questa era sostanzialmente la domanda. Nel rapporto che Caio fece per un altro governo nel 2009 ci si spingeva anche oltre, si davano alcuni suggerimenti su che cosa sarebbe opportuno fare. Quindi sicuramente la politica si deve occupare di questo. Io sono anche dell'idea che ci debba essere un intervento molto più forte di infrastruttura. Ne abbiamo parlato una settimana scorsa, mi sembra molto interessante l'idea di intervenire posando fibra pagata da una società pubblica con un investimento che si può ripagare tranquillamente nel giro di pochi anni, certo in una prospettiva temporale che è più da pubblica amministrazione, non da azienda che guarda nel breve periodo. Quindi su questo non abbiamo molti dubbi e continuiamo ad insistere che questo è importante. Però la cosa che è altrettanto importante è parlare di questi temi. La politica parla troppo poco di questi temi e molto di altre cose che francamente a volte sono un po' inutili. L'infrastruttura che ci farà svoltare, così come sta facendo svoltare alcuni paesi nel mondo, è sicuramente un'infrastruttura digitale in fibra ottica che porti grandi capacità di dati. Anzi, direi che se gli operatori investono nelle città, beh, potrebbe essere una buona occasione per il pubblico per investire nei territori meno popolati, paesi, cittadine, e magari fare di quei posti dove si vive magari molto meglio rispetto alle città posti competitivamente molto più avanzati rispetto alle città. Il dibattito è aperto, noi accettiamo tantissime idee, purché siano idee strutturali, strutturate, basate su dati, insomma proposte serie e non polemiche sterili dicendo ma siamo sempre gli ultimi, parliamo solo e non facciamo mai nulla. Questo bisognerebbe anche un po' smettere di criticare questo nostro paese, perché vi garantisco che viaggiando, più si viaggia più ci si rende conto che certo alcuni paesi sono straordinari e stanno facendo cose straordinarie, ma non è così vero che tutto quello che è all'estero è meglio rispetto a quello che c'è qui nel nostro paese. C'è tanto di buono, ci sono persone straordinarie che fanno cose magnifiche, basta forse enfatizzarle, metterle in evidenza e farle magari metterle anche in alcune posizioni di comando. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto, tra poco parliamo di Internet of Everything. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Adesso parliamo di Internet of Things, di Internet of Everything. Internet of Everything è il nuovo nome di questa evoluzione tecnologica che è stato ideato da Cisco. Allora, parliamo di questo perché questa settimana Cisco ha portato da tutto il mondo moltissimi ingegneri che si occupano di reti per parlare di Internet of Things, ma di tante altre cose, a Milano. Quindi un evento internazionale dedicato a questa tecnologia a Milano. Saluto Agostino Santoni, che è l'amministratore delegato di Cisco Italia. Benvenuto 2024. Grazie. Voi siete un'azienda che si occupa di tecnologie collegate alla rete, producete router, switch, cioè tutte quelle macchine che sono nei nodi della rete internet, che fanno funzionare la rete internet. Per quale motivo siete così interessati a questa evoluzione della Internet of Things, tanto da aver rifatto il nome, averlo trasformato in Internet of Everything, la internet di tutte le cose? Ma noi pensiamo che quello che è accaduto fino ad ora nel mondo di internet abbia chiaramente trasformato il modo di lavorare, di vivere, di imparare, di giocare, ma pensiamo che siamo solo all'inizio. E noi chiamiamo questo momento storico l'industrializzazione di internet. Provo a declinarlo partendo un po' dagli albori di internet. Noi abbiamo conosciuto internet come una modalità per collegare tipicamente dei personal computer alla rete accedendo a un dispositivo fisico. Questa è stata, diciamo, la prima modalità di utilizzo di internet. Successivamente questo si è trasformato nel commercio elettronico, che è stato un altro momento di grandissima trasformazione dell'industria. Oggi siamo al social, quindi di fatto l'interazione non è più esclusivamente in una locazione fisica, arrivo in ufficio, mi collego al PC, ma abbiamo abilitato attraverso internet l'utilizzo ad esempio di dispositivi mobili. Perché noi parliamo di Internet of Everything? Perché pensiamo che oggi Internet possa, attraverso un processo di industrializzazione, collegare più aspetti. E noi li abbiamo definiti in persone, cose, processi e dati. E quindi di fatto abbiamo anche contato i numeri di dispositivi che oggi sono collegati alla rete, che a livello mondiale sono ancora pochi, che rappresentano solo l'1% dei dispositivi che sono disponibili oggi nel mondo. Sono circa 10 miliardi e pensiamo che entro il 2020 questi oggetti o questi nuovi abitanti della rete diventeranno 50 miliardi. E questo avrà un impatto, a nostro avviso, significativo soprattutto nelle aziende, sia grandi che piccole, ma anche nelle pubbliche amministrazioni. E pensiamo che si possa veramente iniziare un processo di trasformazione che noi chiamiamo la nuova rivoluzione industriale, che consenta di trasformare il modo in cui i paesi operano, il healthcare, quindi tutto il settore sanitario, tutti i processi industriali. Quindi sì, di fatto siamo di fronte ad una rivoluzione tecnologica che mette a disposizione di tutti, comunque sicuramente in modo particolare alle aziende, che sono le prime che dovrebbero approfittare di questa rivoluzione, molte cose, molta tecnologia, e bisogna usare la fantasia per farsi venire in mente che cosa è possibile fare, perché molto di questo mondo è da costruire, non esiste, diciamo. Assolutamente sì. Noi abbiamo anche in Italia, in particolare in Italia, stanno nascendo delle aziende di piccole e di medie dimensioni che stanno sviluppando tutta l'industria della sensoristica, che sono un aspetto fondamentale, e sicuramente ne parleremo anche dopo, ad esempio per progettare le città intelligenti, le smart cities. Ma attraverso questa sensoristica, che sono i nuovi abitanti della rete, come dicevo, si possono rivedere tutti i processi di industrializzazione, di funzionamento di un'azienda, per creare un'azienda moderna. Parlo di aziende, ma questo vale anche per la pubblica amministrazione. Sì. Naturalmente si possono e si potranno, e sicuramente verranno creati nuovi prodotti, nuovi servizi grazie alla possibilità di connettere gli oggetti. E quando parliamo di oggetti parliamo, come dite voi, everything, cioè tutto. Allora, lei ha citato l'Italia, poi torniamo sulla Internet delle cose, eccetera, ma sia sincero, quanto vale l'Italia per voi? Perché in questo mondo della tecnologia il nostro paese si dice spesso che valiamo poco, vista da un'azienda americana. Ma noi siamo un paese, diciamo, visto dalla nostra, dal nostro headquarter, quindi dal nostro quartier generale, siamo un paese molto interessante per dimensione di business organizzativa, ma soprattutto per capacità di innovazione. Non l'abbiamo citato prima, ma in Cisco Italia, oltre ad avere una presenza ventennale in Italia, con un'organizzazione che aiuta attraverso i propri partner, clienti e amministrazioni, abbiamo un centro di ricerca e sviluppo a Monza, si chiama Cisco Photonics, che sta studiando la fibra ottica del futuro. Abbiamo deciso di fare un investimento importante in Italia per Expo 2015, dove Cisco è partner di Expo 2015. Quindi c'è una fortissima relazione tra la Cisco rappresentata in Italia e il proprio quartier generale, perché noi abbiamo portato l'innovazione, siamo stati capaci in un periodo storico di portare grande innovazione nel paese. A me piace dire che siamo il sistema nervoso digitale del paese, perché avendo una forte presenza delle nostre prodotti, delle nostre soluzioni veicolati attraverso i nostri partner, abbiamo veramente fatto un grande lavoro in questi 20 anni per poter aiutare il paese. Senta, se dovesse dare invece un giudizio alle imprese, visto che si dice spesso che le nostre imprese, non le faccio parlare della pubblica amministrazione così evitiamo imbarazzi, le imprese hanno capito qual è il vantaggio in termini di competitività, ad esempio, che la tecnologia può dare, e soprattutto, visto che oggi parliamo di Internet of Things, hanno compreso quali sono le possibilità? Certo, siamo ancora agli inizi, perché non solo io, ma molti dati ci dicono che il panorama non è proprio così brillante? Io dividerei le nostre imprese in due, indipendentemente dalle dimensioni, in due grandi segmenti. Ci sono delle aziende italiane che hanno deciso nel corso di questi anni, vedendo una situazione di mercato in Italia complicata, che hanno strategicamente deciso di fare un percorso di ricerca, di sviluppo dei propri affari nei mercati internazionali. Queste aziende hanno, avendo aperto la loro dimensione di mercato verso l'internazionalizzazione, hanno compreso più velocemente delle aziende che invece sono rimaste a sviluppare servizi e prodotti per l'Italia il concetto di utilizzare l'information technology, le telecomunicazioni come strumento di competitività. Hanno fatto questo percorso e ne abbiamo visto i risultati. Prendiamo l'esempio, il mercato, l'industria della moda, che è di gran lunga uno dei mercati più esposto dal modello nel mondo internazionale. Queste aziende hanno fatto questo percorso, cioè, di usano adozione. Molta tecnologia. Usano molta tecnologia. Che potrebbe non sembrare, perché uno dice fanno moda, devono essere creativi. Sì, e punto, devono basta. Essere creativi, però ad esempio nell'ambito della moda diventa importante nei loro punti vendita avere una forte interazione con i clienti. E questi clienti oggi vogliono interagire con i grandi nostri brand della moda, vogliono avere un aspetto social, vogliono avere una certa esperienza all'interno del negozio, quindi sì il brand, ma anche un'esperienza che loro devono dare al cliente, che deve essere assolutamente sempre più tecnologica. Sì. Noi parliamo di questo tema anche perché si è conclusa una settimana in cui voi avete portato quante persone in Italia? Ma noi abbiamo portato più di 7.000 persone. Avete fatto un evento mondiale a Milano. È la 24esima edizione di Cisco Live, che è il nostro più grande evento a livello mondiale. E di fatto siamo riusciti a portare questo evento in Italia e a Milano. I numeri sono interessanti perché 7.000 sono le persone che sono arrivate qua a Milano. Il 95% di queste persone erano ingegneri e rappresentavano 95 paesi. E poi nello stesso programma abbiamo pensato di allargare questa iniziativa anche agli studenti, perché volevamo dare la possibilità, e noi siamo molto impegnati sul tema della cultura digitale, e abbiamo avuto ospiti da noi più di 500 studenti qui a Milano e più di 8.000 collegati in streaming, e quindi 2.400 dagli Stati Uniti. E quindi che cosa hanno fatto i docenti collegati in streaming con noi? Hanno utilizzato queste nostre sessioni di apprendimento tecnologico per poter utilizzarle come sistema formativo. Questi studenti e questi professionisti, i 7.000 che dicevo prima, stanno oggi rientrando, i professionisti, nelle più grandi aziende e nei più grandi, diciamo, organizzazioni di amministrazione nei vari paesi, e progetteranno il futuro, mentre ne sono particolarmente orgoglioso, gli studenti a mio avviso avranno una maggiore comprensione di come progettare il loro futuro. Mi piace dire che siamo riusciti a portare questo grandissimo evento in Italia, a Milano, e questo ha dato supporto anche a tutte le attività che chiaramente portano a un evento di questo genere, quindi tutta l'infrastruttura e il feedback, il risultato dei clienti, delle persone che sono venute da noi a Milano, è stato straordinariamente positivo. Tornando alla Internet of Everything, ci fa un esempio, due esempi, tre esempi, cioè ci fa capire che cosa potrebbe succedere o che cosa sta per accadere, cioè collegando le cose e che tipo di cose, che cosa possiamo fare? Noi abbiamo fatto un progetto in Italia, tra altre cose presentato anche ufficialmente a questo nostro grande evento, il Cisco Live, che è legato all'industria agroalimentare, proprio in preparazione di Expo 2015. L'industria agroalimentare in Italia rappresenta il 15% del PIL. E allora abbiamo sviluppato, attraverso la collaborazione di partner italiani e internazionali, una soluzione che consente, ad esempio, in una industria specifica, che è quella delle cantine vinicole, quella di tracciare attraverso l'utilizzo di tecnologie dal grappolo alla bottiglia. Quindi attraverso dei sensori intelligenti che sono sul campo, che sono vicini alla vigna, attraverso il processo di imbottigliamento, attraverso il prodotto finito, abbiamo una completa tracciabilità di quello che è accaduto a quel grappolo d'uva e a quella bottiglia di vino. Già oggi? Sì, è già disponibile. Abbiamo fatto con un'azienda italiana e questa è una, tra virgolette, una piccola soluzione, ma che dà grande visibilità con un esempio concreto di come si può cambiare un processo produttivo importante. Il vantaggio principale in questo caso qual è? Il vantaggio principale sono molteplici. Il primo, uno dei problemi più gravi del mondo sono le emergenze sanitarie. E un sacco di soldi sono spesi dai paesi per poter cautelarsi per tutte queste attività. Quindi c'è un aspetto fondamentale che è per il consumatore e per le persone di avere attraverso la tracciabilità maggiore sicurezza. C'è un vantaggio incredibile dal punto di vista delle aziende della completa tracciabilità degli alimenti o in questo caso nell'esempio che citavo quello del vino. Ma soprattutto c'è una maggiore attenzione da parte del consumatore che riesce esattamente a capire che cosa sta ingerendo. Attraverso questo progetto vorremmo proprio utilizzare Expo 2015, infatti questo progetto che noi chiamiamo Safety for Food, abbiamo ottenuto il patrocinio sia di Expo 2015 sia del Ministero dell'agricoltura e sia dell'agenzia digitale, perché ci piacerebbe, proprio partendo dall'Italia, creare la banca dati mondiale del cibo e della tracciabilità alimentare, perché l'esperienza che abbiamo fatto sul vino può essere riportata chiaramente sì. in tutta l'industria. Senta, quanto costa mettere i sensori sugli oggetti? Cioè, per creare la Internet of Everything, chiaro, ci sono dei vantaggi, però uno deve poi fare i conti anche con il costo di questi sensori, di queste tecnologie. Ma il mercato della, chiamiamola, sensoristica sta crescendo in modo significativo. Questo vuol dire che la massa critica, quindi le scale di produzione, consentono oggi di ridurre significativamente i costi di questa sensoristica. Ce ne sono di diversi tipi, ma è ragionevole pensare che da 5-10 euro fino ad arrivare a delle soluzioni molto più tecnologicamente più avanzate, però la tecnologia è pronta a costi ragionevoli. I benefici di utilizzare questa sensoristica e di avere un perfetto controllo dei processi produttivi sono enormi, quindi il costo della sensoristica sta sicuramente riducendo, perché aumenta la massa critica di questo mercato, ma fondamentale è il ritorno dell'investimento nel processo di digitalizzazione. Questo, a mio avviso, è la componente più importante, sì, che dobbiamo tenere in considerazione. Senta, se tutte le cose saranno connesse, potremmo pensare anche alla tazzina del caffè, insomma, che tutto abbia un sensore che sia in qualche modo connesso ad una rete intelligente. Questo pone anche dei problemi di sicurezza o di controllo. Questo scenario come lo vede? Il tema della sicurezza è un tema chiaramente fondamentale in questo percorso. La nostra storia ci ha insegnato a conoscere perfettamente e a creare le leggi per quanto riguarda la sicurezza fisica. Arriviamo da quel mondo. È evidente che conosciamo bene le minacce che sono legate al mondo fisico. La sicurezza in un mondo digitale o in un mondo di Internet of Everything è un tema centrale, dove noi stiamo lavorando proprio attraverso i nostri software, la collaborazione con i nostri partner, proprio per essere più pronti. E questo è un aspetto tecnologico. E nello stesso momento bisogna anche lavorare con gli aspetti legislativi, perché queste due attività devono teoricamente sì, andare alla stessa velocità, certo, la tecnologia va più veloce. Va più veloce di default, diciamo così, col rischio appunto che la tecnologia ci sia, sia a disposizione sia dei buoni che dei cattivi, ma la legge non sia pronta. Questo è sicuramente un rischio. Bene, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie mille, buona giornata. E noi concludiamo questa puntata di 2024 con uno sguardo, anche se alla radio è difficile farlo, comunque, su Nova Il Sole 24 Ore, la domenica in edicola con Il Sole 24 Ore, il settimanale di innovazione guidato da Luca De Biase. Ciao Luca, bentornato a 2024. Ciao a tutti. Allora, questa settimana avete già iniziato con la realtà aumentata, la settimana scorsa l'abbiamo raccontato agli ascoltatori, quindi da una settimana su Nova si può utilizzare anche uno smartphone o un tablet e appaiono articoli che non si trovano da nessun'altra parte, giusto? Sì, sono degli approfondimenti riservati ai nostri lettori. Quelli che usano la realtà aumentata. La copertina di questa settimana che cosa è dedicata? C'è una storia fantastica di Iaconesi e Oriana Persico sulla scuola ISIA di Firenze, una scuola straordinariamente importante di design, ricerca artistica, che rischia la crisi per motivi normali. Loro con il corso di Near Future Design, che è un magnifico nome, hanno pensato con gli studenti di fare qualcosa, cioè disegnano il futuro della scuola e lo fanno. In pratica, di fronte alla crisi fondamentalmente economica della scuola, stanno organizzandosi per fare una fondazione degli studenti con la quale andranno a cercare i soldi europei e altri fondi per rinforzare la capacità della scuola di resistere e di accrescere la sua dinamica didattica. È quindi un corso, ma nello stesso tempo il futuro della scuola. È un, come dire, un'idea per innovare non solo la scuola, ma anche una struttura che si trova in crisi e bisogna che si ripensi, che si riorganizzi. Sì, infatti la scuola, poi appunto con la realtà aumentata si possono vedere degli altri approfondimenti, sta trasformandosi di fronte alle opportunità del digitale attraverso fondamentalmente la capacità proattiva dei professori, degli studenti, delle persone che stanno... Questa è una scuola privata, pubblica? No, è pubblica. È una scuola pubblica, sì, quindi diciamo, una scuola particolare, perché chiaramente insomma, non è una classica scuola, è una scuola insomma, molto verticale dedicata ad un settore particolare. Che cos'altro troviamo su Nova questa settimana? C'è il paginone dedicato al temone del venture capital in Italia. Noi sappiamo che con il boom di startup finanziate con seed, quindi con 10-30 mila euro, sono partite molte startup, ma ci aspettiamo che a un certo punto queste startup, quelle che vanno bene, abbiano bisogno di altri capitali per saltare di dimensione, e il venture capital è la soluzione normalmente per quanto riguarda questa cosa. In Italia il venture capital sta crescendo, ma è clamorosamente meno rilevante di quanto dovrebbe per l'Italia e a confronto con gli altri paesi. Abbiamo un grande infografica che ne parla e abbiamo interviste fatte da Luca Tremolada, Alessandro Longo ai principali player del settore. C'è una ragione per cui diciamo, il venture capital è meno importante in Italia? È legato al fatto che ci sono, allora, direi non poche startup, perché effettivamente di startup ce ne sono tantissime. Sì, il venture capital va a cercare opportunità di startup organizzate con il modello che conosciamo soprattutto dall'esempio americano, israeliano, persino cileno. Ce ne sono molte da poco tempo, quindi il fenomeno si sta aprendo in questo momento. Fino a 5 anni fa io parlavo con i venture capitalist che mi dicevano non ci sono occasioni, quindi adesso si stanno formando le occasioni e speriamo che adesso cominci ad essere attratto capitale. Quindi è auspicabile che nel giro di poco tempo ci sia il capitale. Sì, poi ci sono anche da tener conto di misure governative che in teoria facilitano questo, sia abbassando i costi fiscali dell'investimento nelle startup, sia matchando, partecipando con il venture capital privato alle iniziative innovative in modo da moltiplicare più velocemente la disponibilità di soldi. Questo avviene all'estero, non stiamo parlando di cose statali all'italiana, ma stiamo parlando di quello che normalmente succede, specialmente nel resto d'Europa. Bene, Luca, grazie come sempre per essere stato con noi, a presto. Grazie a tutti. E così concludiamo questa puntata, questa lunga puntata di 2024. In podcast avete trovato le nostre interviste in versione integrale, quindi più lunghe rispetto a quello che abbiamo mandato in onda. Vi ricordo che la nostra trasmissione è realizzata grazie alla collaborazione di Anita Panizza, che ringraziamo come sempre ogni settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024 è radio24.it, indirizzo che potete utilizzare per tirarci le orecchie, per suggerire temi, cosa molto gradita, per qualsiasi altro motivo. Oppure potete utilizzare Twitter, @e_pagliarini, o anche l'indirizzo di 2024, o anche la nostra pagina Facebook. Grazie come sempre per la vostra attenzione, per aver scaricato questa versione podcast del nostro programma. Consigliate ai vostri amici, ai vostri parenti, ai politici locali, questo è importante. I politici locali dovrebbero seguire 2024 perché, secondo me, troverebbero molti spunti settimana dopo settimana. Torniamo fra 7 giorni, dipende poi sempre quando avete ascoltato questo podcast, comunque torniamo il sabato al pomeriggio tra le 15 e le 16, la domenica alla sera in replica tra le 23 e mezzanotte. Come sempre un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.